voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. 16ª puntata. Zio Castigo ritornò solo verso il tramonto. Annessa s'accorse che egli era serio e turbato. «Lo hanno preso?» domandò. «Si è costituito, ha fatto male». Ella diventò livida in viso, ma si animò febbrilmente. «Perché male? Credete forse che egli sia colpevole? Anche voi lo credete? Bene, vedremo allora quando i medici faranno la perizia e il morto parlerà. Vedremo se il vecchio è stato bastonato. Vedremo cosa dirà». «Annessa, tu vaneggi? Fammi sentire il polso. Tu hai la febbre. Tu non hai toccato cibo. Perché?» Egli le strinse i polsi e la guardò fisso. Anche lei lo fissava, coi grandi occhi beffardi e tristi, chiari di debolezza e d'angoscia. Liberò le sue mani dalle mani di lui, gliele mise sul petto, lo respinse e cominciò a gridare. «Anche voi li credete colpevoli? Voi, voi, miserabile! Voi che avete mangiato il loro pane, che avete dormito nella loro casa, chi più crederà dunque alla loro innocenza?» «Calmati, donna», disse zio Castigo, agitando le mani. «Tu sei arrabbiata e hai ragione, ma non prendertela con me. Sentimi invece, ragioniamo un poco. Nessuno più di me crede all'innocenza dei miei padroni. Io ho pianto tutta la notte, vedi? E anche tutto il giorno. Ho pianto sulla loro sorte come si piange sui morti. Ascoltami, figlia, io direi una cosa. Tu dovresti parlare con prete Virdis». Ella si calmò. Si rimise a sedere sulla pietra e non rispose. Anzi, strinse le labbra come per impedirsi di parlare involontariamente. L'uomo le mise una mano sulla testa. «Cosa dici, Annessa?» «Io direi...» Ella fece cenno di no. «Prima gridavi, ora stai troppo zitta». «È vero, io stesso ti dissi di tacere come le pietre». «Ma da ieri ad oggi molte cose sono accadute». «Né ieri, né oggi, né mai. Io ho da dire niente a nessuno!» Ella gridò con voce rauca. «Perché volete che parli col prete?» «Così, per combinare sul da farsi». Ella scosse ancora il capo. «Ad ogni modo, io stanotte o domani mattina scenderò in paese e saprò qualche cosa. Non dite che io sono qui. Mi avete accolta, non mi tradirete. Sarebbe il tradimento di Giuda». «Alle tue parole neppure rispondo», egli disse sdegnosamente. Poi si intenerì, le toccò la fronte, avvicinò a lei il recipiente del latte. «Tu hai la febbre, senti. Ti lascio qui il mio cappotto, poi ti riporterò un sacco. Non temere, qui sei sicura come eri sicura nel ventre di tua madre». Nonostante queste parole, ella non si sentiva sicura. Semmai le pareva di trovarsi nel ventre di un mostro di pietra o dentro una tomba di roccia simile alla tomba che chiudeva il gigante morto. Anche lei era stata condotta là dentro dall'astuzia e dalla malignità della sua misera sorte. Ma finché poteva, voleva ribellarsi e combattere. «Zio Castigo ha indovinato tutto», pensava, «e vuole farmi confessare, vuole farmi dire tutto al prete, ma io non voglio, non ancora». Sorse di nuovo il giorno e di nuovo tramontò. Le notizie che portava zio Castigo erano sempre tristi. Non si sapeva nulla della perizia medica né dei lunghi interrogatori coi quali il pretore tormentava gli accusati. «Domani forse i miei padroni saranno condotti nelle carceri di Nuoro». «Pensa, Annessa, pensa», disse zio Castigo, giungendo le mani con disperazione. «Don Simone de Cherchi e donna Rachele legati e messi su un carro come volgari malfattori. Anche le pietre piangeranno». «Che fare?» ella domandò. «Che fare?» ripeté il vecchio. Si guardarono disperati, poi ella proruppe. Ma i parenti che fanno? Perché non si muovono e non cercano degli avvocati? I parenti, gente tua, morte tua, nessuno si è mosso. Solo prete Virdis cerca di aiutarli. Ma che può fare? Vedi, donna, io sono quasi tentato di accusarmi del delitto per salvar loro. Direbbero che siete stato soltanto complice, ella disse con tristezza. La sera del terzo giorno, l'uomo semplice, che non possedendo altro, voleva sacrificare la sua libertà per gli amati padroni, penetrò nel nascondiglio e sedette accanto ad Annessa. «Che avete da raccontarmi?» ella domandò subito con voce sempre più cavernosa. «Che c'è di nuovo?» «C'è questo. Tutti dicono che tu dovresti presentarti alla giustizia. Se ella si nasconde, dicono, ella deve sapere qualche cosa. Anche Prete Virdis è di questo parere. È stato lui a consigliar Paolo a costituirsi e vorrebbe che anche tu ti presentassi. Che sa lui di me? Annessa, egli sa che io ti vedo. Voi mi avete tradito», ella gridò alzandosi. «Giuda, Giuda, peggio ancora di Giuda. Voi avete tradito una povera donna. Ora non vi resta che legarmi e consegnarmi alla giustizia». «Non vaneggiare», riprese il vecchio calmo e triste. «Sentimi, io non ti ho tradito. Io sono andato da Prete Virdis perché è la sola persona che si cura dei nostri poveri padroni e vuole salvarli a tutti i costi. Tu sai che egli, a sue spese, ha fatto venire da Nuoro un avvocato. Tu sai che è stato lui a consigliare Paolo di presentarsi alla giustizia. Egli mi disse: darei 10 anni di vita per poter parlare con Annessa. Ella sola, forse, può salvare i suoi benefattori. Il loro destino è nelle sue mani come un giocattolo nelle mani di un fanciullo. Annessa, figlia del Signore, ascolta la parola di 2 uomini onesti. Né io né Prete Virdis abbiamo mai commesso una cattiva azione e non vogliamo cominciare a commettere il male perseguitando una donnicciuola sventurata. Del resto, tu dici che non pensi ad altro che a salvarli. E questo è il nostro scopo. Bisogna salvarli, Annessa, bisogna salvarli. Ella piangeva, con la testa appoggiata alla roccia. Sentiva che il vecchio aveva ragione. Che aspettava ancora? 3 giorni erano trascorsi ed ella non aveva fatto niente. Ella non aveva tentato niente per loro. Bisognava muoversi, vincere l'istinto selvaggio che la costringeva a nascondersi come una bestia ferita. «Se tu hai paura di ritornare al paese, Prete Virdis verrà qui. Del resto, nessuno ti costringe a fare quello che non vuoi. Hai pure una coscienza, Annessa. Che ti consiglia?» «Ebbene, non devo dirlo a voi», ella rispose sollevandosi con fierezza. «Fate pure venire il prete». Il loro incontro avvenne nel portico della chiesetta. Era quasi notte ancora. La luna saliva sull'orizzonte d'un azzurro cinereo, solcato di nuvole scure, ma ad oriente si distingueva già il mare, bianco, vaporoso. Sarebbe parso un crepuscolo serale se qua e là, nel bosco silenzioso, la rugiada non avesse rese lucide e umide le foglie. Prete Virdis era venuto su a piedi ed era anche caduto, facendosi male ad una mano. Annessa lo trovò seduto sulla muriccia, sotto il portico, con la sottana sollevata fin sulle ginocchia e la mano fasciata col solito fazzoletto rosso e turchino. Egli pregava a voce alta e guardava in lontananza, verso l'orizzonte, di là dalla radura, dove la luna saliva pallida e malinconica. Quando Annessa apparve, egli la fissò coi suoi piccoli occhi grigi, ma parve non vederla, perché continuò a pregare. Anche lei lo guardò con stupore. Egli sembrava un altro. Era meno gonfio del solito, col viso pallido, quasi bianco, cascante. E intorno al suo mento, dagli angoli della bocca in giù, si disegnavano 2 nuove rughe, profonde, Sembrava un uomo disgustato e addolorato, ma d'un disgusto e di un dolore ingenui, di bambino infelice. «Va bene», disse a un tratto, raccogliendo entro il pugno il suo piccolo rosario nero. «Eccoci qui. Avanti. Siediti qui». Annessa prese posto accanto a lui, sulla muriccia, e da quel momento non si guardarono più, entrambi con gli occhi fissi fuori del portico, verso quella lontananza triste, ove la luna impallidiva e il cielo pareva coperto di veli che, uno dopo l'altro, cadevano lentamente dietro le ultime montagne dell'orizzonte. Annessa disse: «Mi dispiace che lei sia venuto quassù, si è fatto anche male. Ah, se avessi saputo. Ma fino a ieri sera ho avuto paura, sono una debole donna, prete Virdis, mi perdoni. Stanotte però ho pensato ai casi miei e sarei ritornata in paese se zio Castigo non mi avesse detto di non muovermi dal luogo dove ero nascosta. Voglio presentarmi alla giustizia, già che vogliono arrestare anche me». «Raccontami ogni cosa per filo e per segno», pregò il vecchio prete, «raccontami tutto». Ella raccontò come era fuggita. «Non questo solo. Raccontami com'è avvenuta la morte del vecchio». «Ma ella lo sa già». «Non importa. Racconta». Annessa riprese a parlare, con la sua voce assonnata e fredda. Ripeté quanto aveva detto ai suoi benefattori. «Questa è la pura verità. La mia colpa è di non aver subito chiamato appena il vecchio è morto». Prete Virdis ascoltava e respirava forte, quasi ansando. Ella non lo guardava, ma sentiva quel respiro d'uomo stanco e le pareva che egli si interessasse poco a ciò che ella diceva. «Tu non dici la verità, Annessa», egli osservò finalmente, senza muoversi, con le spalle e la testa sempre appoggiate al muro. «E io sono qui per sentire la verità, non per altro». Ella non rispose. «Sentimi, Annessa, io non sono né un giudice né un confessore. Il giudice saprà farti dire la verità tuo malgrado, perché questa è la sua arte. Te la strapperà di bocca come un dente cariato e tu neppure te ne accorgerai. Al confessore ricorrerai da te quando vorrai. Io qui sono soltanto un uomo che ama i suoi simili e vorrebbe aiutarli. Volevo dirti soltanto che voglio aiutare i tuoi benefattori a sollevarsi dalla loro caduta e tu devi aiutarmi». «So tutto questo e sono pronta. Che devo fare? Non ho finora seguito i consigli degli amici dei miei benefattori. Mi hanno detto di nascondermi, mi sono nascosta. Mi hanno detto di tacere, l'ho fatto. Ebbene, ora parlerai, dirai la verità, null'altro». L'ho detta, ella insisté. Allora egli abbassò la voce. «No, Annessa, tu non l'hai detta. Io però la so, e la so prima di te, da lunghi e lunghi anni. E l'ho veduta crescere assieme con te, ed è una verità spaventosa. È come un serpente che è cresciuto con te, che si è avviticchiato a te, al tuo corpo, alle tue braccia, al tuo collo, e forma con te una stessa cosa. Donna e serpente. Una stessa cosa che si chiama Annessa». «Prete Virdis», ella disse spalancando gli occhi e alzando la voce tra offesa e spaventata, «non parli così. Che ho fatto io?» «Che hai fatto? Tu lo sai, senza che io te lo dica. Sai appunto la storia del serpente che morsicò e avvelenò l'uomo che l'aveva raccolto nel suo seno. Basta, ripeto, non voglio far prediche. Una sola cosa ti dico. Paolo è corso a rifugiarsi da me quando qualcuno lo avvertì del pericolo. Io lo accolsi come zio Castigo accolse te. Nell'ora del dolore m'ha detto tutto». «Ebbene, che può averle detto? Che ci siamo amati. Ma non sono stata sempre al mio posto io. Che ho fatto di male?» Ecco il serpente che parla. Che hai fatto di male? Hai peccato? Null'altro? Ti par poco? Ebbene, sia pure, ho peccato. Ma il male l'ho fatto a me stessa soltanto. Ma tu non dovevi farlo a te stessa il male, a te stessa meno che agli altri. Dio ti ha dato un'anima pura e tu l'hai insozzata e tu la vuoi ripresentare al Signore come uno straccio lurido. Tu ti sei calpestata, ti sei coperta di fango, ti sei trattata come la tua peggiore nemica. È vero, questo è il tuo maggiore delitto. Dio ti aveva dato un'anima umana e tu l'hai deformata poco a poco, anzi, hai fatto peggio ancora. L'hai uccisa l'anima tua, l'hai soffocata e l'anima tua si è imputridita entro di te come un cadavere in una tomba e ti ha corrotto e ti ha resa immonda. Sepolcro imbiancato, che di fuori par bello alla gente e dentro è pieno d'ossa e di putedrine. Prete virtis, prete virtis. Ella gemette portandosi le mani al viso. Lasciami continuare. Se ti parlo così è perché so che mi capisci. Un'altra donna non mi avrebbe capito, ma tu sei diversa dalle altre. Tu sei intelligente e forse hai già detto a te stessa molte volte quello che io adesso ti ripeto. Ricordati, Annessa, quante volte ti ho sgridato perché non venivi alla messa, perché non ti accostavi più a Dio. Sono anni e anni che tu hai smarrito la giusta via e io ti seguivo, o meglio, aspettavo il tuo ritorno. Ma non credevo che tu cadessi così ciecamente nell'abisso. Chi può salvarti ora? Ella non rispose. Le parole del vecchio prete erano semplici, rozze, anche comuni. Egli del resto gliele aveva dette altre volte. Ma il suo accento era grave, convinto, e nella sua voce vibrava più che il rimprovero la pietà, e più che la pietà un'infinita tristezza. E ogni sua parola cadeva nel cuore di Annessa come pietra dentro una palude, stracciando il velo torbido e fetido della superficie melmosa. «Dio solo può salvarti», egli continuò sempre più abbassando la voce. Tu hai commesso una colpa dopo l'altra, perché questo è il destino di chi si mette sulla via dell'errore. Solo i morti non possono sollevarsi. I vivi cadono e si rialzano. I malati possono guarire. Annessa, poco fa ho detto che la tua anima è morta. Ma ho detto male, poiché l'anima non muore. Ma è malata l'anima tua. E d'un male pestilenziale, d'un morbo che avvelena l'aria intorno. Cerchiamo di guarirla. Anna, rispondi alla mia domanda. Credi tu più in Dio? Non rispondi, ti ripeto. Io non sono ora né il tuo confessore né il tuo giudice. Sono il tuo medico. Non so, rispose Annessa. È vero. Da molti e molti anni non credevo più in Dio perché troppe sventure cadevano sulla nostra famiglia, come fulmini sullo stesso albero, troppo, troppo. I miei benefattori sono gente onesta, timorosa di Dio. Perché dunque il Signore li martoriava e continuava a tormentarli tanto? In questi giorni però ho pensato a Dio qualche volta e ora penso che ella ha ragione, prete virtis. Io non sono malvagia come lei crede. Io ho fatto male a me stessa, è vero, ma l'ho fatto per far del bene agli altri e sono pronta ancora, le ripeto. Mi dica, cosa devo fare? Devo accusarmi di aver ucciso il vecchio. Sono pronta. Dirò, lo odiavo e l'ho ucciso. Legatemi, buttatemi nella reclusione nera come si butta una pietra in un pozzo e che di me non si parli più. Ma mi crederanno? Non ti crederanno, perché questa non è la verità. Tu non devi parlare così, no. Questa non è la verità. Ah! Gridò allora Annessa con voce aspra. Qual è dunque la verità? Che si vuole da me? Me lo dica lei, prete virtis. Sicuro te lo dirò. Ecco, tu devi parlare così. Sono io sola la colpevole. Io che ho ucciso, non per odio e non per amore, ma per interesse. Io sono il serpente e la donna, e ho strisciato anni e anni intorno all'albero del frutto proibito, e ho indotto l'uomo debole a peccare con me. E quando mi sono stancata del peccato della carne, ho rivolto i miei desideri ad altre cose. Ho detto a me stessa: voglio avvincere a me l'uomo con altri lacci. Ma non capisco niente, ella mormorò. Me lo dica con altre parole. Insomma, ecco, tu devi dire così: ho ucciso il vecchio in modo da far credere, se il delitto si scopriva, che Paolo era il colpevole e io suo complice. Di questo delitto volevo farmene un'arma e un laccio contro Paolo, per tenerlo sempre avvinto a me. Io devo dire così e sarò creduta? Certo, perché è la verità. Ella balzò in piedi, rigida, livida, con le mani contratte. I suoi occhi si spalancarono, si fissarono sul prete con uno sguardo vitreo e feroce. «Prete Virdis», balbettò. «È Paolo che le ha detto questo? È lui, lui! Voglio saperlo subito, mi dica subito che non è vero, se no io...» Il prete non si mosse e neppure la guardò, ma con voce alta, che pareva ironica ed era triste, ben diversa dalla voce tenue e pietosa con la quale aveva fino a quel momento parlato, domandò lentamente: «Se no, mi farai quello che hai fatto a Zua de Kerchi?» Allora ella credette di capire una cosa spaventevole: che il prete avesse paura di lei, come di una bestia, come di un cane idrofobo, e che cercasse di colpirla cautamente, fingendo di non temerla. E in quel momento intese tutto l'orrore del suo delitto e le parve di essere davvero simile al serpente al quale prete Virdis l'aveva paragonata. «Mi guardi, prete Virdis, mi guardi, in nome di Dio», disse rauca e anelante, mettendosi davanti a lui e costringendolo a guardarla. «Ripeta, se crede in sua coscienza, a quanto ha detto». «Se lo crede lei, prete Virdis. Se lo ha creduto Paolo, lo crederò anch'io. Crederò d'essere al di sotto delle bestie feroci. Crederò d'essere simile al maiale che divora il bambino nella culla. Lo dica, ma lo dica, lo ripeta. Se me lo ripete una sola volta, io non esiterò. Correrò giù in paese, mi inginocchierò davanti alla porta del carcere e supplicherò che mi venga aperta questa porta, che mi venga spalancata come la porta d'una chiesa».